Allora, pronto, vediamo se siamo, riusciamo ad andare in diretta, come promesso. Ci senti? Pronto? Io sì, gli ascoltatori ci sentiranno? Pronto? Vediamo, non lo so, cioè, sì, glielo potremmo chiedere. Glielo potremmo chiedere, però la linea è occupata, quindi... Sentite, ascoltatori ed ascoltatrici, e le ascoltatrici, ci state udendo? Allora, se sì, potete fare un trillo che non si può fare perché il telefono è occupato. Hai capito? E quindi niente, restiamo da capo a 12, però possiamo, se volete, continuare per molto tempo su questo, su questa, oppure cominciare a spiegare il motivo della telefonata. No, no, ci ha chiamato infatti, cioè, perché ci ha chiamato? Allora, perché vi ho chiamato? Allora, vi ho chiamato in qualità di promotori e divulgatori della serata che farà la radio e al Forte Prenestino, ad Araxia, al Giardino Violetto e tante altre cose. Per cui vi ho chiamato perché appunto poi stiamo organizzando questa cosa e ognuno fa la sua parte, diciamo, per cui c'è chi è andato a fare le riunioni preparative al Forte, no? Perché bisogna sempre prepararle queste iniziative, organizzare la parte logistica, insomma, della faccenda, poi bisogna invitare i gruppi, bisogna accoglierli, bisogna preparare la cucina, eccetera eccetera. Stavolta tra l'altro vengono gli Ataraxia dall'Emilia e il Giardino Violetto, che sono piuttosto pretenziosi, mi è sembrato di capire, insomma, quindi gli verrà fatta... In che senso, scusa? No, come persone, diciamo, cioè, insomma, non suonano da tanti anni, rivengono un po' come star, diciamo, nell'iniziativa. Ci sarai di star, cioè, più che mai molto riflessivi, ecco, questo sì, però... Mi pare che se ne sta a far stare più che altro, no? No, dico, però ci sarà bisogno di qualcuno che li accoglie pure, no? Penso che ne occuperete voi o qualcun altro. Ma di chi? Del Giardino Violetto. Di noi stessi. Esatto. Cioè, sì, pensiamo di cioè, penseremo di accoglierci nel migliore dei modi. Okay. Ecco. Okay. Voglia. Io però abbiamo già svelato, ancora davanti allo specchio un sacco di volte, devo dire che non sempre mi trovo bene, però ti trovi sei accogliente, allora così va bene. Allora dai, raccontate, ti raccogli, insomma, pure i pezzi, a volte ti raccogli, sì. Dipende dal momento, a volte ti accogli, a volte ti raccogli. Penso che il messaggio che dovremmo dare è quello di questo tipo qua. Ho capito. Va bene, cioè io capisco, spero che anche sempre le ascoltatrici e gli ascoltatori abbiano capito, però poi tutto sommato non è nemmeno così importante. E va bene, dai, ce lo raccontate un pochino come è andata fino adesso l'organizzazione di questa serata e che cosa prevede. Allora, l'organizzazione non cioè, so. Sinceramente non ce l'hai importato molto, no. Cioè, non l'avete curato, dobbiamo essere sinceri, cioè, questa volta non cioè, nel senso, magari ci siamo occupati di altro, ecco. No, un po' ci siamo occupati pure dell'organizzazione, che consisteva soprattutto nel mandare mail, ricevere messaggi e fare telefonate. È stato, insomma, un duro lavoro, però il famoso ufficio stampa, qualcuno doveva farlo. È uno sporco lavoro che qualcuno deve fare. Poi per il resto ci cioè, sarà sicuramente l'apporto degli Ataraxia, che vengono, come dicevi tu, dal Reggio Emilia, Modena, più o meno. Sì. E presenta il loro nuovo album che si chiama Deep qualcosa. Sì. Però comunque venerdì so che ne parleremo un po' meglio. Come si chiama? C'ho informazioni riservate che, no, che non, mi... sentiamo, no, non ti sentiamo più. Ah, dico, c'ho delle informazioni riservate. Allora, ci siete? Pronto? Niente, non... Prova a richiamare, dai. Va bene, ok. Ok, però mi avete sentito, ho detto prova a richiamare e mi avete sentito. Il dannaglio da radio. Allora, ci riproviamo. Ci siete? Sì. Ok. Vabbè, quello di prima. Quello di prima, quello che disturba. Dicevamo, degli Ataraxia avevo informazioni abbastanza riservate che dicevano che venerdì ce ne occuperemo durante il Noctibus Panis. Sì, confermiamo. Quindi ci sarà un'intervista all'interno di Noctibus Panis, quindi il venerdì sera dalle 8:15 fino alle 10, e ci sarà l'intervista con la voce degli Ataraxia. Benissimo, quindi sapremo anche come si intitola il loro ultimo lavoro. Sì, glielo potremmo chiedere, sì. Potrebbe essere un oggetto della, della chiacchierata. Dove c'è? La parola dip c'è. La parola? Dip. Dip, come Johnny, insomma. Sì. Bene. Ma insomma... Bene, anche vabbè, no, bene. Noi ti fidiamo, dai. Ok, quindi Ataraxia, Giardino Violetto, e poi ci saranno alcuni DJ pure, se non sbaglio. Dai, ci saranno ben 3 DJ di Radio Onda Rossa. Mm. Di cui... Ma no, tutti insieme, uno per volta. Uno per volta, non, sì. Non sì, sovrapposti. Sì, no. Però sarebbe carina pure la cosa di farli tutti e tre insieme. E nello stesso spazio, proprio una cacofonia totale, proprio una roba da cacciare via la gente. Comunque, la cosa più bella di questa serata, sa che suonerà il Giardino Violetto, non so cosa hai detto. No, ma non, cioè, era la cosa anche meno interessante, forse a questo punto. Noi eravamo il Giardino Violetto, volevamo intervenire. Ah, eravate voi, ma io avevo chiamato non come Giardino Violetto, però avevo chiamato come i curatori della serata. Ecco dove nasce l'equivoco. Ho capito. Fate troppe cose contemporaneamente. Non, tra l'altro, appunto, uno dei DJ chi sarà? Il Giardino Violetto o curatore della serata? Curatore della serata. No, però cioè, hai avuto l'accortezza di cambiare nome, però dai. Esatto. Vabbè, comunque, insomma. Vabbè, insomma, non è che sto sempre io a fare le cose, No, assolutamente. Comunque mi servirebbe qualcuno che mi spiccia a casa. Non so se qualcuno è disponibile, visto ma le vostre. Io, la voglia. Quanto ieri l'ora, infatti. Ma un onore spicciare a casa mia, però insomma. Mi fate come. Per l'odore o per l'onore? Forse tutte e due le cose. Esatto. L'odore non in questo periodo. Da sola, oh. Va bene. No, vabbè, c'è un altro personaggio che viene della stella, cioè, sì, no, vabbè, quella è imbattibile, diciamo, è qualcosa di incorruttibile. No, c'è un altro personaggio che è parecchio esoso, insomma, e comunque non mi permetterei mai di spicciargli casa, e che comunque per fortuna non ci sarà, insomma, sabato notte, ecco, ci sarà, ma non farà nulla di spettacolare, ecco. Non so se avete capito. Secondo te chi è che chiedeva sempre soldi in cambio chi è che chiedeva sempre soldi in cambio di prestazioni radiofoniche, diciamo? Ah, vedi. Venerdì pomeriggio. Vabbè, cioè, hai abbassato un po' il tono della chiacchierata. Sì, stavamo parlando. Comunque no, va bene. Parliamo a questo punto di Giardino Violetto, switchiamo quindi dai curatori. No, dai. L'argomento. La domanda di riserva. Non ho capito, no, perché c'ha da dire il Giardino Violetto? No, Diego, parliamo un attimo del Giardino Violetto, 1989. Parliamone, dai. 1989. Dico, se non sbaglio errato. 89. Poi dopo, è nulla. E quindi quanti anni? Abbiamo riflettuto. Siccome in algebra. Riflettono a lungo. Sì. Siccome in algebra c'avevo un voto scarsissimo, mi vuoi un attimo ricordare qual è il gap temporale che ci separa da quel 1989-2017 è facile, con 1,90 poi c'è 27-28 anni. C'avevamo un altro piglio probabilmente all'epoca, la voglia, ma anche un altro capello anche un altro cipiglio. Benissimo, sì. Però ci riproviamo alla grande, informazione un po' rimaneggiata a quanto ci è dato sapere. Mi sono girato dietro, insomma la campagna acquisti purtroppo ci ha dato quello che ci ha dato e quindi per forza ci siamo dovuti un po' adattare. Vabbè. Non lo so, io pensavo mettere sulla fascia un altro giocatore, però non mi solidificava molto. Ho capito, quindi formazione rimaneggiata, però pur sempre l'allenatore rimane pur sempre vabbè, stavamo nella metafora calcistica. Sì, l'allenatore sì, è rimasto sempre lui, il mister è sempre lui. Il mister, sì. E noi giochiamo dove ci fa giocare lui. Comunque dai colori non sembra più arbitro, Dai colori mi sembra. Vabbè. Beh, ci stanno pure delle squadre rugbistiche, insomma, che amano l'assenza di colore. Allora, ci sarà da mangiare e da bere, passando sempre assolutamente, sì. Ci sarà cena, quindi infatti l'idea è pure questa. Compagni e compagni, amici, fratelli, cittadini, cugini partigiani. Cani e cagne, e chiunque vuole venire al Forte Prenestino potete venire alle 8 e un quarto, 8 e 20, 8 e mezza, cenate in tranquillità, poi vi appropinquate verso la sala concerti dove si farà questo concerto, insomma una volta mangiato, 10 e un quarto, e magari sarebbe molto bello se riuscissimo a iniziare tipo 10 e mezza, 11 meno un quarto al massimo, in modo tale che ci godiamo tutte e tutti per bene la serata, perché insomma merita, come sì, dire, no? Ma è proprio anche un tentativo di educazione che stiamo facendo pian piano anche come radio, cioè quella di far iniziare i concerti anche di sabato, perché non è che uno perché domenica non va a lavorare sabato per forza i concerti devono iniziare 3 di notte, insomma è un po' un tentativo così di pubblicità progresso, no? Ti ricordi una volta c'era la pubblicità progresso? Cerchiamo di iniziare i concerti di sabato in un'ora. Di venire anche incontro proprio come dice te, no? Insomma, le problematiche quotidiane di tutte e tutti, a volte sì, c'è gente che la domenica mattina va a lavorare oppure magari stacca la sera alle 10, giustamente insomma non c'ha proprio tutta questa grande autonomia di serata, quindi voglio dire, per noi, per magari la maggior parte, che insomma magari il sabato è un po' più tranquillo, riuscire un po' prima di casa non costa, certo, ma poi appunto ci si diverte alle 11 e all'una, non è che per forza una all'una deve fare, poi lo dice uno come me che insomma è un ritardatario proprio nelle ossa, insomma nel DNA, quindi però dai, facciamo sto sforzetto, pian pianino riusciamo a autoeducarci e fare in maniera tale che le serate inizino in un'ora decente. Vabbè, abbiamo più o meno detto tutto. Cosa volete aggiungere? Insomma, questo grande ritorno quindi di Giardino Violetto, di Ataraxia, ne parleremo venerdì prossimo. Abbiamo anticipato. Niente, siamo tutti estremamente curiosi di questo ritorno e di questo quindi. Esperimento in qualche maniera, no? Perché dopo 28 anni è un come iniziare nuovamente, penso, no? Beh, dopo 28 anni a volte la musica riesce a suonare bene nonostante tutto, quindi un po' l'idea è questa, probabilmente, come dire, i suoni non passano, le modalità di atteggiamento nei confronti della musica, del suonare eccetera eccetera, magari non cambiano poi così tanto nonostante tanti anni di differenza, insomma l'idea è più o meno questa qua che ci fa andare nuovamente su un palco dopo tutto questo tempo. Anche perché no. Penso, se vi chiedo qual è il vostro disco del cuore, il disco che non proprio il vinile, il CD, la selezione in formato elettronico come volete, però la musica, diciamo, l'opera che preferite, che vi rimane nel cuore, non penso che abbia meno di 20 anni, ma non perché appunto dobbiamo dimostrare, proprio perché anche quando ero pischello io avevo una cosa che mi piaceva di più di tutti, che era dei 20 anni prima, che magari manca ero nato. Io se vuoi la posso dire, non so, dimmela, se il mio compare qua ce l'ha la sua, il suo disco del cuore se ha più di 20, non meno di 20 anni. No, è a più di 20 anni sicuro. A più di 20 anni, vedi. E qual è? Degli Amebit, Monolith. Lo vedi? Ma vedi. Vabbè, io sono molto più volgare e retrivo e dico Pornography dei Cure. Oh, 1982, oh, quindi ho 25 anni. Eh sì. Quindi sì. Ci siamo, dai. Ok, allora. Vabbè. Che vogliamo fare? Che vogliamo fare? Ci vediamo sabato. Vuoi salutare qualcuno? Che ne so? Zia Antonietta. Zia Antonietta, vedi? Ok. Ok. E magari dici che ti sta ascoltando, gli ha telefonato prima. No, vabbè, l'hai avvertita. L'avevo avvertita. Ti voglio tanto bene. Però. In diretta sulla radio, quindi. A questo punto a tutte le zie Antonietta. A tutte le zie e zia Antonietta, voglio. Anche zia Antoni. Sì. E zia Antoni. Perché no? Va bene, zia. Vabbè. Allora dai. Mi ha fatto piacere comunque. Sì, no. Cioè, eravamo partiti molto aggressive, invece poi siamo finiti a tarallucci e vino, mannaggia. Poteva uscire fuori una litigata radiofonica che invece fa molto audience, capito? Alza una cifra agli ascolti, litigare per radio. Col fare il cioè, non lo so, dai. Invece vabbè, poi andiamo così, andiamo avanti un po'. Vabbè, sì, come. Potevamo andare avanti un po', invece poi è finito a tarallucci e vino, va bene. Va bene, dai, tanto gliel'avevo detto, guarda che finiamo cioè va a finire la 25esima ora, 00:01, quindi con i due terzi del Giardino Violetto, no? Vado errati? I due terzi, i 4/5. I 4/5, va bene. Il 5/4. Confermiamo la frattaglia, ok, la macelleria, i quarti del proprio, sì, okay. Va bene, molto vegana come, come tipo di approccio, benissimo, dai, vegano vabbè, certo, i quarti questo, come attitudine, okay. Sì, no, quello sì, ma i vegani sono suonano un aspetto fondamentale del Giardino Violetto. Dico, i vegani possono suonare i 4/4? Beh, direi di sì. Diresti di sì. Perché sono quarti diversi, non sono i quarti di bue. No, sì, saranno quarti di bottina. Ok, perfetto, giusto, vedi. Ok, comunque ci ho un po' rotto il cazzo queste domande. Sì, no. Non è un bel modo, capito, da cicco i gruppi, capito? Troppo chiuso. Troppo, no, ma troppo pure regalate, cioè nel senso. Sì. Cioè, vai a domande a scontate, cercare di scavare il profondo, ma nel profondo ti chiede la tua nullità, cioè il profondo del tuo nulla. Quindi. Io ho 28 anni, capito, che aspettiamo pure. Qualcosa, esatto, ma magari anche no, ma magari richiudiamoci, basta, quindi, no, basta. Quindi devo cazzo, quindi potrei fare una domanda invece di quella del tipo da che cosa viene il nome Giardino Violetto? Non so, come ti chiami? No, radiofonia sembra un po', cioè, un po' la rottura di palle questa cosa. Te come ti chiami, scusa? Sì, vabbè, quello non me lo sono messo io, me l'hanno messo il nome del cioè, ah, quindi è stato il pubblico, quindi ce l'hanno messo e noi abbiamo detto vabbè, figo, lo teniamo. Ah, vabbè, no, è una risposta, cioè hai voluto, volevi che appunto ci fossero delle domande di tipo così non formali, però che, quelle categoriali normalmente che si fanno alle band, no? sì, davvero, io l'avevo chiesto sta cosa. No, no, mi era sembrato di capire da. Ah, no, ma è vero, no, ma infatti è vero, no, c'era cioè, detto un nome che ci è uscito un giorno, una sera, mentre suonavamo, e pensavamo. Quello pure è un bel nome per il gruppo, e uno ha detto Giardino, un altro ha detto Milizio, è diventato Giardino. Poteva essere pure una buona risposta, così tanto è, non mi ricordo, non so, non ricordo. No, me lo ricordo, è uscita così. Eravamo così, questo gruppo di amici, in questo giardino violetto, e abbiamo detto dobbiamo trovare un nome per un gruppo. Quale potrebbe essere? Ma che ha fatto Giardino? Sì. L'alto violetto, diciamo, ti confermo che è andata proprio così. Ah, beh, e la sostanza che avete assunto all'epoca? Tanto sono passati tanti anni, andare in prescrizione, insomma, comunque. Dici? Sì, penso di sì. No, vabbè. Non particolare. Esatto. Non era una sostanza particolarmente aggressiva. Boh, non lo so, stavano di due cose. Non lo so, erano dei cartoncini, boh, non mi ricordo. Okay. Roba di cartone, roba di cartone. Roba di cartone. E... Cartoncini. Francobolli. Mi sa che erano così. Francobolli. Benissimo, quindi il giardino pian piano, vedi, si ricostruisce il mosaico del. Però non è che c'è voi che sta a portare verso la psichedelia. No, sei fricchettone dentro. Beh, io porto verso le verso gli argomenti che più mi sono consoli. No, noi siamo contro tutto questo. Ah, certo. Contro tutto, proprio in assoluto. Contro tutto. Proprio contro anche contro che abbiamo fatto noi, che quello si costa 28 anni fermi, perché noi ci siamo imbarazzati profondamente di quello che abbiamo fatto quella volta, quindi almeno 25 anni fermi siamo stati. Per i piasse. Poi altri 2 anni abbiamo riflettuto e adesso proviamo per la prima volta, dopo questo grande imbarazzo, a vedere se ne usciamo fuori. Ma non è detto. Cioè, niente è certo. Quindi potrebbe essere altri 28 anni dopo? Sì. Può essere tutto. E quindi potrebbe essere un'occasione, cioè dovete da venire perché potrebbe essere un'occasione unica, più unica che rara, direi. Cioè magari lo vedi cioè c'è gente, no, che dice ah il concerto del giardino violetta al Buona Club, io c'ero, no, con te. Sì. Posso confermare io, non c'era quasi nessuno. Quindi esatto, molti sono mendaci. E adesso potrebbe essere una cosa altrettanto mitica, e se dici io c'ero e faccio una bella, mi sai che te non c'eri. Come ti ho detto, è il modo di aspettarti 28 anni. Le contiamo tutte. Non prendiamo impronte digitali, fotografie, nomi e cognomi, perché quello lasciamo ai questurini. No. Però se ricordiamo tutto. Se ricordiamo tutto noi, tutto. Non ci sfugge niente. Niente, pure i pezzi. No, tutto. I pezzi ve li ricordate? Sì, quello è. Quello ci riuscite? I pezzi, sembra di sì. Ci siamo, come dicevamo prima, per ritornare alla metafora calcistica, allenati duramente per questa sfida. Possiamo insomma di arrivare a sabato. Siamo in forma. Senti, ma entrate pure col fogliettino, quello con la play, con la lista dei brani? Con la playlist. Ma guarda, non so, facciamo 46, facciamo fondo, facciamo 46 brani, quindi beh sì, diciamo fino al 27 ce lo ricordiamo, dal 27 al 46. Abbiamo questo taccuino che portiamo sul palco e. Lo consultiamo. E... c'è sta Pastino con sta fronte, sì, tanti brani. Aiutatemi voi, dai, qual è una domanda da backstage da fare alle band? La domanda da backstage. Sì. Una curiosità, la chicca del gruppo. Per una volta che posso fare una. Ah, sì, visto che c'è questa fantasia, quale potrebbe essere? Ma che fantasia? Cioè, vabbè. No, che. Niente. No, è che per una volta potuto fare un. Perché la bellezza era di fare una cosa nonsense, capito? Nonsense, senza senso. Priva di senso. Invece. Infatti sta veni bene, mi sembra. Stanno a perdere tempo una mezz'ora. Esatto, esatto. Mi sembra che siamo perfettamente in tema. Per una volta di, come dire, di smettere i ruoli formali. Ma come parla? Non lo so, ma l'ha chiamata da amico tuo. Cioè io non lo so. No, il mercoledì sera gli prende così, c'è quest'ora, la 25esima ora, e lui entra nel mondo metafisico, nell'iperuranio, dice tutte queste cose, dice queste cose per radio, e c'ha pure voglia che ci sia qualcuno che gli risponde. Esatto, più o meno siete... Allora facciamo una cosa, facciamo l'intervista a te. Ma te, no, per carità. Come no? La voglia, forse ti riporta la cosa. Te hai pensato, per esempio, tutta questa tua carriera da vecchia data, eccetera, eccetera. Old school. Che è davvero interessante intervistare i gruppi per radio. No, era la domanda già iniziava male, perché era: te hai mai pensato? E già lì, diciamo, c'è sta un blocco. Già lì il ragionamento è sbagliato, quindi non va bene. D'altronde sta a parlare qua con noi, quindi voglio dire. Va bene. È una tautologia. Poi magari in un'altra data su Wikipedia andiamo a vedere che cosa vuol dire tautologia. Comunque dovrebbe essere una roba tipo ripetizione inutile, ecco. Va bene, allora, Giardino Violetto, ritorniamo al tema pian pianino. 1989, il concerto al Wonna, non c'era nessuno, tutti quelli che c'erano si conoscono più o meno, se ricordiamo. Certo, in tanti anni magari qualcuno era bello e diventato brutto, qualcuno era uomo e diventato donna, qualcuno era donna e diventato, cioè può essere un po' successo di tutto, quindi se potrebbero essere mischiate le carte, quindi ci potrebbe essere un po' di confusione in tutto questo. Però uscì pure una cassetta, se non sbaglio, che poi venne trasformata in un altro supporto? Allora, no, uscì una cassetta effettivamente, che era un demo tape di questi 7-8 pezzi che più o meno avevamo scritto, eccetera, eccetera, che in realtà il discorso fondamentale era questo: i tempi suonavamo dentro a un garage, tutto rimbombava, non si capiva assolutamente nulla di come suonavamo. E quindi, siccome era impossibile, come dire, in qualche modo cercare di catturare quello che stavo facendo, decidemmo di andare dentro uno studio, spendendo tra l'altro una fraccara di soldi inimmaginabile, per registrare una cosa e vedere come veniva fuori. Perché, insomma, nonostante il frastuono, pensavamo che qualcosa di decente potesse venire fuori. Quindi ci siamo andati a questo studio, che si chiama Pampa Studio, stava via Santa Maria di Filiatrice, tra l'altro, più piccola, da questo tassi, sempre Roma Est, diciamo così, e niente, poi ci diedero alla fine tutto questo lavoro, tra l'altro, insomma, con un tecnico che secondo me è abbastanza bravo nel creare i suoni, con questo nastro a casa che ci sentimmo, e dicevamo che, insomma, faceva veramente impressione, cioè facevamo impressionare da soli, ma siamo noi che abbiamo suonato queste cose, così, questa qui è la domanda, sì, della serie, ma questi siamo noi, ma che abbiamo fatto questa cosa, sì, dopo c'è una cosa secondo noi da un lato inascoltabile, dall'altro assolutamente fuori dalla nostra portata, cioè proprio come se fosse stata una possessione demoniaca in qualche modo. E dopodiché abbiamo iniziato a far girare queste cassette tra vari amichetti, altra gente che suonava, insomma, poi c'erano i giri ai tempi delle scene post-punk, dark, gotiche qua a Roma, quindi ci si vedeva, magari cambiava cassette, no? Tanto questo gruppo, tanto quest'altro, In particolare c'è stato un personaggio adesso che si chiama Diego, tuttora si chiama Diego, che era un grosso appassionato di musica post-punk, che aveva delle liste di distribuzione, perché lui era fissa anche a cercare magari bootleg, le registrazioni virali oppure di scritto hub, diciamo, delle liste di distribuzione del suo materiale, e faceva girare cose, gruppi introvabili, cioè a casa sua ascoltava per la prima volta, non lo so, in anni inusitati, tipo il nostro disco, il Cypress, piuttosto che il disco Wolf, cioè veramente cose che magari insomma, non erano proprio alla portata di tutti, e lui ha iniziato a girare questa cassetta, ma l'ha fatta girare molto molto bene, nel senso che ha girato veramente per il mondo, al punto che alcuni anni fa, insomma intorno agli anni 2003-2004, quando ho deciso di mettere online i vari materiali che ho accumulato negli anni, ho scoperto che esisteva un mondo, e tuttora esiste, perché poi intorno al Giardino Violetto stanno un sacco di situazioni, anche all'estero, che sono molto interessate, ci viene questo materiale e cose varie, che nel frattempo si era propagato, ma in tempi molto molto molto primordiali la rete non c'era, c'erano proprio lo scambio di cassette, di informazioni, di servizi, eppure questa roba ha girato in una maniera che veramente questo a testimoniare che il supporto tecnologico in realtà, aspetta che abbasso un po' il send, sennò dico il supporto tecnologico in realtà non è poi così determinante rispetto alla qualità o la innovazione o la stranezza o la magia, insomma il momento in questo caso sia veramente, poi non so se vale così in generale per tutto, però in questo caso qua era proprio una questione proprio di passione, cioè di scambio proprio di musica, proprio di sensazioni, no? Della cosa un po' anche della malattia di trovarsi il gruppo particolare, quello che non conosce nessuno, quello che chissà come suona, e poi in particolare comunque trovare ai tempi, insomma, gruppi in Italia e a Roma che suonassero quel genere musicale, insomma, era abbastanza complicato, cioè, più unico che raro, insomma. Quindi cioè, tutta una serie di cose insieme che un po' ha creato questa mitologia, e soprattutto, ripeto, anche a discapito proprio di quello che è stato fatto, perché secondo me, io ho sempre detto, cioè non avevo mai capito che neppure adesso, ma che sono proprio bravissimi, che niente. E comunque, insomma, questa roba in qualche modo è evidentemente arrivata, alla gente gli è piaciuta, no? Veramente non riesco tutt'oggi a capire, a comprendere bene fino in fondo il perché, però evidentemente c'è stata questa cosa e quindi niente, ci fa piacere. Come non eravamo a sbagliare a suonare prima, se non vai a suonare a muro, insomma, non è che cambiamo molto, un 28 anni. Vabbè, insomma. Sono diventati di Santana del post-punk, insomma. Questa cosa la dobbiamo coltivarlo, questo mito, perché tra l'altro potrebbe anche ritornare utile alla radio stessa, insomma. Lo diciamo pure in diretta, cioè a noi ci servono i sordi essenzialmente. Come? Dico, lo diciamo anche in diretta, alla radio servono i sordi essenzialmente, e ha bisogno di fare soldi. Ha bisogno di fare soldi per mantenere. Ti sentiamo lontanissimo. Ah, mannaggia, aspetta. Guarda un po', meglio? Così va meglio? Sì, direi proprio di sì. No, perché fischiava tutto come avevo messo il mix. E dicevo, no, la radio ha bisogno di qualcuno che sa far mixere, comunque potremmo venire ogni tanto. Preferivo la cosa di spiccia a casa, onestamente, però vabbè, pure il mixer ci accontentiamo. Dicevo, la radio c'ha bisogno dei soldi essenzialmente, e insomma fa un po' di tutto per fare soldi, quindi anche spignese il Giardino Violetto e il mito del Giardino Violetto, tanto a quanto ho capito non è che era troppo cercato questo diventare oggetti di culto, è una cosa che è venuta un po' a culo, un po' così, in maniera abbastanza casuale. Spiazzante. Sì, no, devo dire che raccogliere le memorie cioè, Mi ha fatto una domanda più complicata, ce n'hai una un po' più facile? No, non era complicata. Le parti suonate, che ne so. No, e queste erano quelle però che... Queste, sì, è come? No, non si è capito, non l'ho capito nemmeno io. Quanti pezzi suonate e poi qual era l'altra? La domanda più semplice. Qual era l'altra, l'altro esempio di domanda più semplice? Quanti pezzi suonate, l'altra? Se siamo contenti di suonare al forte. Ah, se siete contenti di suonare nella cornice del forte. Sì, dopo tanti anni finalmente torniamo al forte. Sì, è un posto che insomma abbiamo sempre amato, il nostro posto di cuore. E no, vabbè, tanto, ritornare al forte dopo tanto tempo. No, però veramente, insomma, sono a forte, mo, al di là dello scherzo, insomma, c'è sta tanti, mi ricordo per esempio i Sabò vennero a suonare all'Acrobax a fine concerto, ma Iafamo organizza una sera forte, cioè ci stavo io proprio, Iafamo organizza, e dopo due giorni si organizzò la sera dal forte, insomma, ma proprio su loro richiesta, perché gli andava le suonare a forte, insomma, gruppi che venivano, loro so, in parte ciechi, ciechi della Cechia, nella parte di Italy Blinder, e dall'altra parte statunitensi, insomma. Per cui no, vabbè, suona forte, è sempre suona forte, insomma, c'ha il suo perché. Sì, no, vabbè, poi allora Sì. Ma per esempio, pure il fatto di ritornare al forte con certe sonorità è una cosa che ci ha interessato proprio come forse forse è partito proprio da questo, dall'esigenza, insomma, di far attraversare, insomma, attraversare gli spazi occupati, appunto, con tanti suoni che fanno parte di Radio Onda Rossa e che facevano parte del, cioè già sono passati poi in tanti spazi, come appunto il posto triestino. Sì. Quindi noi a maggior ragione volevamo, insomma, fare un'iniziativa appunto con sonorità non solide magari o molto frequenti direi gli spazi occupati. Quindi il nostro intento era proprio questo, insomma. Ma poi, a quanto mi ricordo, almeno per aver sentito, visto una parte della preparazione in tempi molto antichi di questa idea, che è ancora un'idea, mm-hmm, quindi del coltivarla, nasceva proprio da In Noctibus Panis, insomma, dalle sonorità che sono solide di quello spazio musicale che prima era, che insomma ha avuto tra l'altro parecchi spostamenti nel palinsesto settimanale, proprio così per favorire la persona che conduce In Noctibus Panis. Sì, sì, ma infatti sì, ci saranno sicuramente anche questi suoni in questa serata, fra l'altro da DJ di questa serata in Noctibus Panis, dopo insomma un bel po' di tempo, penso, quindi sarà anche un altro motivo in più per essere, insomma, felice di stare là, di riportare queste sonorità al forte. L'idea era proprio di fare, insomma, un sacco di tempo che non si sente questa musica in giro per i posti occupati, era un po' il caso di riportarla. Riproviamo a fare una serata in qualche modo, insomma, come primo tentativo, vediamo un po' come va, insomma, di farla continuare, insomma, nel tempo questa cosa, vediamo un po' di trovare anche le giuste location per continuare, insomma, pensiamo che così, è un primo tentativo, vediamo un po' come va, però siamo abbastanza fiduciosi che sarà una bella serata per noi, quello sicuramente. Ascoltate, mi dovete insultare nuovamente perché si sta abbassando l'audience. Perché si sta abbassando l'audience un po' per l'ora tarda. Ah, è vero, l'ora tarda. E quindi per bisogna, insomma, ridare un po' di verve, mi dovete insultare. Trovate un insulto gratuito, dai. Se no sono costretto a farlo io, mi dispiaceva. Laziale. No, vabbè, però non viene considerato a me un insulto quello, lo sanno anche ascoltatori e ascoltatrici. Vabbè. Va bene, dai, io direi che più o meno abbiamo. Penso che il silenzio vada bene come insulto. Come insulto? Sì, sì, penso di sì. fai una radio, cioè con uno sconosciuto, cioè, esatto, è tutto finito, è la morte proprio. Sì, sì. Anche se diciamo Onda Rossa di tanto in tanto regalava di questi silenzi a causa di problemi tecnici vari che erano veramente tristissimi, però va bene. Va bene anche così. Questa è Radio Onda Rossa. Benissimo, allora in attesa, quindi diciamola tutta. O adesso o almeno fra 28 anni per venire a ritrovare Giardino Violetto. Per chi, cioè, l'idea è più o meno quella. Però non si sa. Multipli di 28. E tra l'altro, per tutti quelli che non c'erano al WON, quindi, e quindi penso 7 miliardi e dispari di persone che ci stanno sulla Terra, insomma. Quindi occasione unica e irripetibile, specie per alcune generazioni, forse pure la mia, insomma, speriamo di no. Sì, secondo me sì. Ecco, vedi, vedi, questo insulto ha fatto automaticamente impennare di nuovo l'attenzione e l'audience. Sono aumentati proprio il numero degli ascoltatori, è assolutamente funziona. Hai il picco proprio. Sì, assolutamente. Conta che il prossimo picco sarà 28 anni, non è detto che lo rivedi. Ecco, vedi. Quindi niente, dovete venire. La leggo, mando lo spottino, ve lo faccio sentire pure a voi. Dai, come ti pare. Dai. Sì, dai. Sabato 4 febbraio, CSOA, Forte Prenestino, Via del Pino, 100 Celle, serata a sostegno di Radio Onda Rossa. Dalle 22.30 Ataraxia in concerto, intro con Il Giardino Violetto. A seguire DJ set Dark, Wave, Gothic, Ethereal, Electro, Industrial con i DJ di Radio Onda Rossa, Electrodo, prove tecniche di trasmissione, In Noctibus Panis, Mitta Geisen. Sabato 4 febbraio, CSOA, Forte Prenestino, Via del Pino, 100 Celle, serata a sostegno di Radio Onda Rossa. Poi pronto? Ci siete ancora? Pronto? Sì. Diciamo, il problema che avrò è quello comunque di pubblicare qualcosa di questa intervista, se voi acconsentite, perché mi toccherà tagliarla un bel po', insomma, perché per la maggior parte è assolutamente inascoltabile. E non so se convenite. Delle domande. Perché, cioè, fate la tua autocritica. Sì, no, no. Mi toccherà. Quindi pure te per 28 anni in un buco a pensare, dopo magari ti riesci a fare un altro picco, un altro picco, certo, no? Vabbè, mi toccherà lavorare, questo era. Cioè, mi toccherà lavorare tanto per mettere solamente gli scambi di insulti che ci siamo fatti, perché quelli portano appunto audience, portano ascolti alla radio. E invece le parti serie, le parti che per fortuna sono abbastanza piccole, non è colpa nostra. Sì, no, ogni tanto purtroppo malgrado ce l'abbiamo messa tutta per però ogni tanto cioè purtroppo facciamo pure noi delle cose fatte bene, va bene. Delle cose con senso, ecco. Allora, sentire lo spot, non ci resta che dare a tutti appuntamento al 4 febbraio. ho fatto sembrare, fatto Prenestino, via Federico del Pino, Centocelle, Ataraxia e il Giardino Violetto, più i DJ di Radio Andarossa, Elettrodo, proprio tecnico di trasmissione, hai capito? I Notti Buffanis, il Notti Buffanis e Nitta Gais, grande ritorno. Quindi potete venire al Porto Prenestino per l'ora di cena. Magnate una birretta da sgrasso, tranquillità. Posso aggiungere? Posso aggiungere che quanto Sagaruscia del qua e là, poi entrate nella sala concerti e già sono già 40 avanti. Sì, già qualche suono potete cominciare a sentire. Sì, superati, con l'intro, ci sarà, poi dovete dire ci sarà il gruppo Spalla, già di Violetto che si finisce. Il gruppo Spalla. Il gruppo Spalla, si dice. Sì, sì, sì. Però non si usa più. No, non si. È come quelle parole di Suede che non si usano più, sì, come scrauso. Madonna, quanto sei scrauso. Sì, intro già più male. Fratario dei 28 anni fa. Fratario 28 anni fa. Il gruppo del merda che sono prima quello di vedere con i figli. Così è. Gli accollati. Conoscono qualcuno che gli fa sì. La bruta. C'è gente che ci campa dalla vita, così è bello. Quello abbiamo organizzato noi, quindi... Ma tu sei uno che organizza te, non c'è, no, funziona. Uno organizza il concerto con la band, fa venire da fuori e poi prima zona. Onestamente l'abbiamo organizzato noi, ci siamo noi. Uno se lo spigne, se lo organizza, certo, è chiaro. No, è chiaro come sono date le cose, insomma, è assolutamente. È facile. Evidente. Comunque c'è questo gruppo Spalla, cioè Violetto e poi Ataraxia che presenteranno il nuovo album di qualcosa. Ma Spalla di che poi? Cioè perché si dice Spalla? Perché è come a Spalla, come all'avanti spettacolo, no? C'è il comico e c'è la Spalla. Ma no, perché è un modo desueto di dire le cose. Quando sei triste ti posso offrire la mia spalla. È un No, pensavo perché il prosciutto è la parte nobile, invece la spalla, cioè la spalla se dai uracci. No, non è quello. Ma siamo sulle metafore così. Gastronomiche. Della gastronomia operaia. Cannibalizzazione, coltello, forchetta, mangiamo del padrone. Esatto. Va bene, dai, diamoci un taglio. L'ora e mezza. L'ora e mezza, anzi, mi toccherà mettere pure due scudi. Mi toccherà pure mettere due scudi di sottoscrivo alla radio, insomma, perché appunto un'ora e mezza. Riguardare l'assegno. Sì. Però se mi veniva a spicci a casa sempre. Intanto lascia la segno, poi vediamo. Va bene. Hai messo per mezz'ora, se non stanno in mezza. Almeno siamo a 500 almeno. Sordi del Monopoli. Sì, vabbè, mandiamo sotto lo spilingone, quello che sta lì. Preoccupato. Non si fa così questo, fatta così, però. Là dillo prima. Il gruppo Spalla. Mi mandate sotto il gruppo Spalla. Dai, ok, vi ringrazio. Vi ringrazio. Poi i sordi vediamo dopo, semmai se sarà quello che è. Vi ringrazio e mezzanotte 33 minuti dopo la mezzanotte, un'ora di non senso totale grazie a Giardino Violetto, quindi non posso che ringraziarvi. Comunque noi eravamo gli organizzatori. Gli organizzatori, grazie agli organizzatori che poi si è scoperto erano pure Giardino Violetto, noi volevamo tenere occulta la cosa, ma evidentemente è uscita, è stato inevitabile. Senza vergogna. No, nessuno. Va bene, qui fischia tutto, io vi accanno. Va bene? Ci accanniamo vicendevolmente? Vabbè. Buona. Buonanotte. Ciao. Ciao belli. Oh, provate pure domani? Ma che stai, prendi in giro? No, no, vabbè, perché domani potremmo fare pure il bis, magari. Durante apostasia. C'è la trasmissione pure del giovedì. Apostasia. Ah, tu sei il gerro di apostasia. O il vecchio burattinaio, che ti hai l'eminenza grigia di apostasia. Va bene, dai. Buonanotte. Bella, ciao. Ciao. Aspetto qualcosa che fosse. Creature maledette, Fantozzi vide la verità e si turbò leggermente. O meglio, si incazzò come una bestia. Ma allora, ma siete preso per il culo! Chi t'ha sempre preso per il... Ma loro, patronato, le multinazionali! Per 20 anni mi ha lasciato credere che mi facevano lavorare solo perché loro sono buoni! Amore per te, altro cattivo, esaltazione, testa del tuo mano. Ma sei sbogliato, sei soggetto a fruttore, è un furto, una truffa. Una vita passata a lavorare solamente per farli arricchire. Progresso e no tecnologie, per uscitano la produzione. Migliorare ma non tanto si vendicano. Il contazzino, schizzante, panierato, svuotato, fino a farti sembrare un automa, sempre meno specializzato. Sento un pezzo del malvigenio. Una vita passata a lavorare solamente per farli arricchire. Morde la coda.